parte alla Costituente, era italiano, ma era lealista e conservatore. Quelli istriani, italiani dell'Istria sono tutti quanti del cosiddetto partito radicale, cioè il partito, diciamo, di ispirazione risorgimentale, patriottica. A Vienna cosa fanno? Chiedono innanzi una cosa: l'utilizzo della lingua italiana come lingua ufficiale amministrativa dell'Istria. Il governo di Vienna che dice? Il governo di Vienna, che ovviamente non ci penserebbe mai in mettere in discussione in altre parti l'uso della lingua tedesca, però dice agli italiani: ma guardate, noi ve lo daremo pure, diciamo. Però insomma, la cartina etnografica dice che qua gli italiani sono 60.000 e gli slavi sono 115.000. Ecco, come possiamo permettere che 115 slavi parlano, insomma, abbiano solo l'italiano come lingua ufficiale? Rispondono gli istriani. Ma è vero anche che i 100, come dite voi, che insomma, secondo noi sono di meno, ma comunque, quando anche fosse così, tutte queste popolazioni slave, quando scrivono, scrivono in italiano. Non esiste una lingua scritta in Istria che non sia l'italiano, non esiste una lingua dei mercati che non sia l'italiano, o il Veneto, insomma, non esiste una lingua di interazione generale in Istria, che comprendono tutte le persone quando vogliono dialogare, indipendentemente dalla propria origine, che non sia l'italiano e il Veneto. Quindi l'unica lingua amministrativa può essere l'italiano. Chiaramente qua è un discorso politico alla base del conflitto, la cosa comunque non è risolta, anche perché dopo poco c'è il neoassolutismo e la Costituzione viene, diciamo, congelata fino agli anni 60, quando un'altra volta l'impero asburgico deve riformare le basi, come diceva giustamente Vagna. Io fortunatamente mi posso riallacciare una serie di cose che ha detto Vagna, quindi non devo, diciamo, fare una serie di macrosistemi, fortunatamente. Lo ringrazio per il suo quadro che ci ha dato asburgico. Comunque negli anni 60 c'è bisogno un'altra volta di una rilegittimazione dell'impero. Nel 48 non c'era stato bisogno, la rivoluzione era stata battuta sul campo. Nel 59 invece l'Austria aveva perso, riperde nel 66, e quando si perde uno deve un po' rilegittimare le basi del proprio consenso, e quindi si comincia questa via costituzionale. Questa via costituzionale è basata su una serie di autonomie amministrative, però non impedisce la nascita del nazionalismo. Perché? Perché queste autonomie, queste vengono date, insomma, a delle rappresentanze politiche provinciali, delle diete provinciali, dei parlamenti provinciali, che hanno una larga competenza sull'amministrazione, sulla scuola, su tutte queste cose, che però, appunto, come vi dicevo, incominciano a organizzarsi su una base fondamentalmente nazionale. Quindi là, se quello che decidono, che cos'è? La lingua, per esempio, delle scuole, la lingua dell'amministrazione, cioè chi assumere, chi non assumere, quali insegnanti avere, cose anche molto concrete, e si battono e si scontrano molto spesso proprio su questo, insomma, su quale lingua utilizzare. Entra anche il governo in questa contrapposizione come? Uno, cercando di mediare, no? Il cosiddetto un po' divide e tempera, ma anche cercando di mediare nella fattispecie in alcune decisioni, per esempio negando l'università agli italiani, che era chiesta, però anche in altre situazioni, insomma, permettendo che a Trieste, anche se ci sta una minoranza slovena, questa non abbia mai una scuola slovena, quindi in qualche maniera e permettendo anche agli italiani un dominio sul Parlamento provinciale, basato sul che? Sul fatto che le elezioni sul Parlamento provinciale erano sempre basate sul censo, che significa che chi aveva più soldi aveva più una possibilità di avere più deputati, perché per esempio le città dove abitavano italiani, dove c'era una popolazione più ricca, potevano dare un numero di deputati alla dieta provinciale maggiore di quanto potevano dare i comuni rurali, anche se questi avevano, per esempio, contandoli nella loro totalità, una popolazione a volte maggiore. Adesso non voglio entrare nello specifico del sistema elettorale curiale asburgico, che è abbastanza complicato. Tra l'altro là c'è un libro che ho visto tra questi di Paolo Ziller, in cui c'è un articolo proprio su questo. Io quando ho fatto la tesi di laurea mi sono scontrato su questo articolo, e vi assicuro però che, insomma, si legge piano piano, ma quando si legge quell'articolo si capisce come funzionava il sistema elettorale. Tra l'altro è un libro che ha delle sezioni sia dedicate all'Istria che dedicate appunto al Trentino e al passaggio al periodo del primo dopoguerra, e spiega comunque come funziona il sistema curiale, e spiega anche questo, insomma, il fatto che non solo italiani, perché erano italiani, ma anche i tedeschi in Boemia erano favoriti dal sistema elettorale di questo tipo. Quindi un after che da una parte nega qualcuno, permette all'altro, insomma, che media tra le cose, e si entra anche nella decisione di quale lingue usare qua e là per le scuole e per l'amministrazione. Come? Con il censimento. Censimento che chiaramente viene fatto ogni 10 anni, dal 1880 fino al 1910, e là, anche là si vede un piccolo scontro, perché poi alla fine cosa succede? Che chi faceva il censimento in pratica erano gli ufficiali della città, cioè che erano decisi dal comune, che era il potere, decideva chi erano gli ufficiali del censimento, e insomma qua e là questi ufficiali poi in qualche maniera portavano l'acqua al mulino del partito, che poi aveva permesso il fatto che loro ottenessero questo posto al comune. Era tutto un cortocircuito in qualche maniera. Non sempre, perché poi a Trieste quello che succede nel 1910, che gli sloveni, che erano ormai diventati quasi, io non ho fatto riferimento a questo aspetto, che però insomma lo accenno, è importante questo, sia la democratizzazione però sia anche l'urbanizzazione, la crescita sociale, la modernizzazione che si verifica nell'impero, sono tutti fenomeni importanti. La minoranza slovena all'inizio a Trieste è assolutamente marginale, però con la crescita del porto di Trieste e con la crescita sociale ed economica di questi contadini che vengono a fare gli operai dell'arsenale, del porto industriale, cresce anche una minoranza slovena a Trieste, e così una piccola minoranza croata anche a Pola e a Fiume. Questa minoranza nel 1910 ha già una serie di associazioni, non ha una scuola perché il comune non gliela dà, però ha una serie di un'organizzazione di scolastica privata e delle associazioni in cui promuovere la propria lingua, e nel 1910 dice no, secondo noi il censimento non è così, non è possibile, noi siamo così pochi. E l'Austria a questo punto ci mette lo zampino attraverso il luogotenente, che era insomma non favorevole agli italiani. Fosse stato favorevole, avrebbe detto no, non era favorevole il partito italiano, o almeno cerca di bilanciare il potere del partito italiano a Trieste, e quindi ordina la revisione del censimento. Ma è l'unico caso che succede. Nel generale gli ufficiali del censimento locale hanno, non dico man bassa, perché comunque l'Austria era comunque un paese in cui le cose si facevano in maniera diciamo più pulita sicuramente. Quando l'Italia arriverà nel 1921 il censimento sarà molto più dubbio, così come nel 1945 il censimento jugoslavo sarà ancora più dubbio. Quindi quando arriva lo Stato nazionale di qualsiasi colore sia, le cose cambiano. Nell'impero multinazionale esistono ancora delle forme di bilanciamento, delle forme di controllo, però quindi a livello comunale, come dicevo, insomma, le cose vengono ogni tanto forzate. E da questo però, siccome in alcune aree il comune non era solo gestito dagli italiani, ma anche dai croati, dall'alternanza del potere politico nei comuni, a volte uno riesce ad avere una media tra i censimenti, no? Ed è quello che succede in alcuni paesini dell'Istria a partire dalla fine dell'Ottocento, in cui il partito croato per la prima volta incomincia a vincere in alcuni paesini del centro. Qua, diciamo, il mio libro si ferma sul quadro istriano. Io arrivo al 1870-1880 facendo questo discorso un po' generale, poi entro su questa cittadina che vedete su questa cartina che vi ho dato, si chiama Pisino, in croato si chiama Pasin, in tedesco si chiama Mitterburg, che era appunto la sede dell'Istria asburgica, della vecchia contea di Pisino, e dove insomma, i croati erano già forti nell'area della campagna, e verso nella metà degli anni Ottanta incominciano a essere così numerosi anche in città, l'accesso al voto si amplia anche alle classi più povere, fatto sta che alla metà degli anni Ottanta riescono a vincere le elezioni politiche del comune. E quindi, per esempio, facendo un esempio rispetto al discorso che stavo facendo, il censimento dell'Ottanta fatto dagli italiani mostra, mettiamo, insomma, non lo so, adesso non mi ricordo esattamente, ce l'ho qua, diciamo, mostra un numero di italiani un po' maggiore, e il censimento del 90 un numero di italiani un po' minore, chiaramente, adesso non voglio, ecco, diciamo, tutto il comune di Pisino, per esempio, nel 1880 aveva 15.000 abitanti, di lingua d'uso italiana erano solo 2.300 e serbo-croata solo 12, e ben 12.000, però nella cittadina in effetti italiani erano 1.516, i croati e serbi 1.590, però anche perché anche il comune, sia il comune era quasi tutta campagna, ma anche la cittadina, il cosiddetto comune censuario, in fondo era la cittadina più le campagne attorno alle mura, che poi non c'erano neanche le mura a Pisino, quindi anche una parte della campagna era considerata città. In generale, diciamo, potevano essere croati un 500 e 1.500 italiani, però vediamo. Stando almeno ai voti dell'area del comune censuario, quindi questa città più le... si chiama città, anche mi sembra strano così pochi abitanti, però in effetti aveva uno statuto, come succede in tutta l'Istria, che era di città, uno statuto, ma anche una forma di interazione urbana. Quindi 1.500 italiani nel 1880 e 1.500 serbo-croati. Nel 1886 cambia, come vi ho detto, il comune e italiani del 1500 diventano 1100 e croati del 1500 diventano 1900 in 10 anni. Insomma, adesso dove sta l'inghippo? È un inghippo minore. Se vi leggessi quello che succede nel 1921, che era tipo da 13.000 croati e 2.000 italiani, si arriva tipo a 7.000 italiani e 7.000 croati. Vabbè, questi sono i censimenti. Quello che però è interessante dire nel 1880 cos'è? Oggi l'ho ritrovato guardando un libro di Elio Api, che è un bravissimo storico, purtroppo da poco scomparso, che ha fatto molti bei libri su Trieste e l'Istria, che appunto, come dice, che riprende le parole di un certo Tommaso Luciani, che era un irredentista degli anni 60, che era poi esule in Italia, che aveva condotto la lotta appunto proprio contro l'Austria, e si ritrova a Venezia, ormai esule, e lui dice però non è tanto in grado di capire cosa lo sviluppo nazionale risorgimentale di sloveni e croati, vede la cosa ancora promossa da Vienna. Infatti dice: il risveglio attuale delle popolazioni delle nostre campagne in senso slavo va calcolato fino a un certo punto, perché è un risveglio fittizio, diceva alla sua amica, allieva in qualche maniera, maestra Giuseppina Martinuzzi, a cui scrive questa lettera. Le consiglio di non far mai concessioni al nemico, ma di valersi nel combatterlo di tutti i diritti, di tutti gli stratagemmi che concede lo stato di guerra. Il mosaico etico, infatti, per Luciani era in qualche maniera un'alterazione, secondo lui era Vienna che portava avanti questa crescita slava. Questa crescita slava, in effetti, come dicevo, è anche una crescita un po' in base a una crescita sociale ed economica della popolazione slava, su cui non mi dilungo più di tanto, anche perché poi cominciamo a stancarvi. Però è interessante vedere come si arriva a un momento, a una conflittualità tra partiti che fanno riferimento al mondo croato, al mondo sloveno, al mondo italiano dall'altra parte, e questa contrapposizione politica entra anche nelle città attraverso delle contrapposizioni che prima non c'erano, sia tra famiglie, vediamo famiglie da una parte e dall'altra, sia tra popolazione che aveva più interagito pacificamente, e negli ultimi anni dell'Austria incomincia ad avere più tensione. A contribuire questo è il fatto che ci siano sia scuole, sia ginnasi. Pisino, la città di cui parlo nella parte finale del libro, a 2 ginnasi, uno italiano e uno croato. In questi 2 ginnasi arrivano studenti da tutta l'Istria che si iscrivono al ginnasio, non sono del posto, quindi cominciano a vivere il posto a partire da una loro appartenenza non locale, territoriale di Pisino, del pisinese, ma nazionale, perché vanno al ginnasio italiano o al ginnasio croato. I maestri, i professori lo stesso, per esempio i professori italiani vengono molto spesso al Trentino, dalla piccola, che poi sarà insomma padre del musicista dalla piccola, ma anche insomma Fabio Filzi arriva a Pisino dal Trentino, ma altri professori così vengono insomma dall'area del Trentino, ma anche insomma altre aree dell'Istria invece costiera, e così come alcuni professori sloveni o croati della Dalmazia arrivano a Pisino. Chiaramente cosa le lega? Il fatto che sono da una parte croati o sloveni, però si inseriscono nel quadro croato, o sono dall'altra parte italiana. E queste relazioni, che magari potevano stare in questa città da prima, in cui ci si conosceva, e cominciano a diventare anche più difficili. Gli studenti lo stesso. Dice, per esempio, c'è una bella beh, ricordo da parte di un, vediamo se riesco a trovarlo, insomma, di un ex scolaro del ginnasio croato. Interessante vedere che ex ginnasio, il croato del ginnasio italiano, per esempio, erano Biagio Marin, un poeta istriano, era Luigi Dalla Piccola, che hanno anche regalato alcune pagine interessanti della loro memoria. Però c'è uno di loro, invece, che è il croato, che ho voluto inserire perché racconta quello che fa Biagio Marin, ma spesso fa nelle poesie. Questo Mate Balota, che era uno scrittore croato, dice nei suoi ricordi, dice: in verità noi non entravamo di regola nelle loro cartolerie. Vedete, incominciano a essere cartolerie per il liceo italiano e per il liceo croato, quindi né compravamo i giornali italiani, e loro non venivano alla nostra cartoleria, libreria, e non compravano i nostri giornali, ma a casa, nelle vetrine, per strada, vedevamo spesso i loro giornali, ne leggevamo i titoli, a volte anche gli interi articoli, specialmente se avevano un tono battagliero verso di noi. Unico posto, a un certo punto non so dove lo metto, e era praticamente neutrale, il circo, quando arrivava. In città era un posto dove gli scolari andavano tutti, insomma, anche se dice Balota a un certo punto anche là, poi le panche più italiane da una parte, le panche più croate dall'altra, e altre, insomma, altri luoghi invece, un luogo neutrale che continuava a vivere era la pasticceria. In pasticceria si andava misti, insomma. E secondo me in qualche maniera poi questi spazi continuano a vivere. Il fatto è che però le associazioni di solito sono l'ambito che veicola le interazioni sociali della socializzazione, erano gestite dalle elite politiche, e le elite politiche erano del partito croato, del partito italiano, e fondavano appunto la Lega Nazionale, che c'era anche da queste parti, ma oppure la Cirillo e Metodio, che era quella croata slovena, o ma erano anche in questo libro. Poi alla fine, insomma, parlo di Pisino in particolare perché ho voluto fare degli esempi concreti delle cittadine, come insomma associazioni italiane. Per una città, tra l'altro, così piccola, tra l'altro, c'erano occasioni di società, la società di mutuo soccorso, la filarmonica, la fidrodrammatica, quella delle biblioteche popolari, l'Alpina, l'Asinaria, la Concordia, la società politica, la società di lettura, il consorzio agrario, la Pro Patria, poi Lega Nazionale, quella che sussidiava gli studenti poveri del ginnasio, la Banca di Pisino, il club ciclistico, la società escursionisti, il circolo podistico, il circolo democratico di cultura, eccetera, eccetera. Questi sono tutti circoli italiani. Italiani perché? Perché si fondano con uno statuto italiano, perché erano fondati da una crema di notabili del luogo, l'avvocato, il notaio, erano tutti appartenenti alla Lega Nazionale e al partito italiano. E facevano sì che le interazioni, le feste, i concerti che venivano organizzati dalla Filodrammatica erano tutti quanti che proponevano Verdi, proponevano interazione italiana. Così. Questo dal 1880 circa. Così i croati, piano piano, dal 90 circa, incominciano a fondare il Coro dei Tamburacci, l'Associazione Cirillo e Metodio, la Cassa di Risparmio, la Società dei Maestri della Cultura Popolare, la Sala di Lettura Croata, la Società di Assistenza agli Studenti del Ginnasio Croato di Pisino, l'Associazione Economica, l'Associazione Politica, il SOCOL, quella sportiva nazionale. E c'era così quella Cirillo e Metodio femminile, la Casa del Popolo, la società, io le dico in italiano, però esiste un nome croato per ognuna di queste, chiaramente, la società dei alpini istriani, quella dei professori, quella dei studenti, la libreria, quella dei coltivatori di api, eccetera, eccetera, eccetera, quella musicale. Quella musicale è importante perché in una cittadina di 4.000 persone trovi una società. Una banda italiana, una banda croata, già là in qualche maniera dici: ma tu vuoi suonare, allora dove andare? Una banda italiana o una banda italiana? E alla fine uno in qualche maniera, vedi, queste cose cominciano con politica, ma poi entrano nella socializzazione, spingono a schierarsi. Ed è quello in qualche maniera che succede in questa cittadina, e gli ultimissimi anni poi vedono anche una serie di piccole risse. All'inizio sono risse così, insomma, quasi, non dico amichevoli, però insomma, se le danno di ottoni, di santa ragione, la banda croata che arriva dal paese, perché andava a suonare il paese, la banda italiana in città, e domenica sera, si suona la domenica, a un certo punto si incrociano, verso centro periferia e cominciano a darsela. Poi cosa succede quando ci sono queste cose? Ecco, l'Austria interviene, i gendarmi, molto spesso i gendarmi sono italiani, sono croati, però molto spesso i magistrati sono italiani, i magistrati, ma non gli avvocati, perché gli avvocati incominciano a essere proprio leader politici. Quando ci sta il processo, che succede? Gli avvocati, quelli della banda croata vengono difesi dal leader politico locale che è un avvocato, quelli della banda croata, cioè quelli della banda croata dal croato, quelli italiani dall'italiano, e sulla, insomma, tra i due scanni dei due avvocati incominciano a dirsele di tutti i tipi. L'avvocato italiano, che guarda caso è il segretario locale del partito italiano, e l'avvocato croato, eccetera eccetera. E insomma, una contrapposizione che in qualche maniera poi investe la società. Io non so fino a che punto avrebbe retto questa società asburgica così, però in qualche maniera forse avrebbe trovato una forma di stabilità, qualche rissa c'è, un piccola, insomma, una sparo di pistola, ecco, insomma, nel 14 non c'è moltissimo, diciamo la verità, però c'è un ferito nel 13, sempre a Pisino, fino al 90 non era proprio senso. Però che succede poi? Non succede solo che crolla l'Austria, forse avrebbe potuto ricomporre questi conflitti, però quello che succede è che succede, c'è la guerra, armi, tutti imparano altro che il pugnale, incominciano a usare insomma, le armi da fuoco, a essere molto più pronti all'uso della violenza e accettare anche l'uso della violenza. E in queste aree dal 18 in poi ci saranno una serie di conflitti molto più pesanti e poi, insomma, che poi creeranno problemi a tutti, anche all'amministrazione italiana che cerca di in qualche maniera di controllare queste manifestazioni che poi diventano manifestazioni all'inizio nazionaliste e poi diventano squadriste con attacchi diretti sia socialisti, che poi i socialisti incominciano a cercare di trovare una via. Fino alla guerra i socialisti, io ne parlo poco, almeno a Pisino, a Trieste e a Pola sono più importanti perché a volte mediano, a volte però insomma sono più nazionali anche loro da una parte e dall'altra. Dopo la prima guerra mondiale i socialisti diventano l'unico punto di riferimento insomma, di un'idea mista. E però insomma anche quelli vengono messi sotto attacco, ma soprattutto croati e sloveni da parte dei fascisti, e gli italiani più liberali non, insomma, si perdono in qualche maniera, si perdono in questa contrapposizione che ormai è totale, e quando si incomincia a usare la violenza insomma è difficile tornare indietro. E l'Italia liberale, ci sono una serie di personaggi liberali che cercano di frenare e non ci riescono, la corsa alla violenza è sempre più alta, finché a un certo punto nei primi anni 20 cioè, arriva Mussolini al governo, pone, perché poi la contrapposizione diventa frontale tra una parte, tra lo Stato e i nazionalisti italiani da una parte e gli slavi, croati e sloveni, che si sentono in qualche maniera oppressi nel fatto che non possono usare la lingua, non possono usare avere le loro scuole che vengono chiuse, queste associazioni che vi nominavo vengono tutte chiuse, chiudono anche le italiane in effetti, chiudono, rimangono due o tre perché poi il dopolavoro, queste cose, però è tutta questa società asburgica che era una gara, però un po' di tolleranza c'era assolutamente, finisce poi la seconda guerra, poi sarà una riedizione della in versione ancora più tragica della prima, però io mi fermo qua e diciamo vediamo se poi vogliamo continuare a parlare con qualche domanda, mi spiace che vi ho tenuto così a lungo.